Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21, passate da due minuti di questo mercoledì, stranamente c'è Agostino anche quest'oggi, anziché giovedì ma anche il mercoledì questa settimana. Perché? Perché abbiamo la gioia, anzi, e con gioia di sentire, di proporre un grande cantautore toscano, ma ne parliamo tra qualche istante. Quindi una buona sera dal sottoscritto Agostino Spolaore e soprattutto dal mio fedele compagno, che è immancabile, mio nonnetto. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, ben ritrovato anche a te a distanza. Grazie di una settimana. Alcuni dati tecnici e poi salutiamo subito Tiziano. Dunque, la nostra emittente trasmette nei 88 794 600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il nostro sito dove potete ascoltarci in streaming, e cioè www.bluradioveneto.it. Lì ascoltate la radio 24 ore su 24, basta, assolutamente in diretta, basta andare in alto sulla sinistra nella home page, c'è scritto ascoltare la radio, cliccando lì si sente assolutamente totalmente la radio in qualsiasi momento della giornata. Poi ancora le nostre pagine di Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto normale, diciamo, dove trovate tutte le varie notizie, e poi ancora invece c'è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che salutiamo e ringraziamo anche perché è il, come si può dire Maurizio, quello che organizza tutti questi eventi, il curatore ufficiale di tutti i live, compreso quello di stasera, che verrà dopo le 22, e tutti gli altri, i due di stasera esattamente, l'intervista e il live che faremo alle 10. I ragazzi sono già arrivati, stanno ascoltando, ascolteranno Tiziano anche loro adesso. Certo. Lo vogliamo ascoltare anche noi Tiziano Mazzoni. Ciao Tiziano, benvenuto a Blu Radio Veneto. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto dalla Toscana. Bene, buonasera Tiziano. Che tempo fa lì? Ma qua il tempo è buono, sta facendo, ormai il sole è tramontato, c'è un'aria fresca, tira un po' di vento e si spera in un weekend che abbia clemenza di noi, perché ultimamente è sempre piovuto nel fine settimana, quindi certo. Si spera in bene. Hai cominciato ad andare al mare? No, ancora no. Ancora no. Ho un bimbo piccolo di un anno quasi e siamo completamente dedicati a lui. Andremo in agosto, penso all'Isola d'Elba. Bene. Che meraviglia. Tiziano, ho letto una cosa molto bella. Sei stato folgorato sulla via di Damasco da Bob Dylan. È vero, è così? Sì, è vero, questo è completamente vero. Si parla di un po' di tempo fa, vero? Un bel po' di tempo fa, perché avvenne che la Rai, allora... in una trasmissione di Renzo Arbore trasmettesse stralci di concerti e trasmise un brano, Just Like a Woman. Hai scelto un brano da niente, proprio quello sconosciuto di Dylan, praticamente. Con Dylan, George Harrison, Leon Russell e Ringo Starr, mi ricordo, al tamburello. Io rimasi folgorato proprio da questo omino che in questo Madison Square Garden gigantesco da solo attirava l'attenzione di tutti gli spettatori. Il mitico concerto from Bangladesh, esattamente. Quindi sei stato folgorato da questo pezzo, questo omino di ora settantenne e più che scrisse Just Like a Woman e ha scritto tante altre cose. E perché ha imbracciato la chitarra, Tiziano, oppure? Sì, o no? è stato per quello, perché mi colpì questo. Io non sapevo nemmeno, l'ho capito dopo, non è che uno fa un progetto prima, almeno per me, insomma, delle scelte che avrei fatto. L'ho capito dopo, che è quello che mi ha attirato, forse era la capacità di raccontare, di comunicare. Io negli anni, suonando, dico anche due cose di me, diciamo, da chitarrista folk all'inizio con Riccardo Tesi, organettista pistoiese come me, molto importante, molto famoso, molto famoso, ha lavorato con De André, con Foscati, esatto, con Lavanoni, con molti importanti artisti. Poi ho fatto chitarrista blues, visto che è la città del blues, e poi col tempo ho scoperto la canzone proprio come storia, cioè la figura del cantastore, della persona che una volta viaggiando raccontava cose successe altrove, erano i media di allora, e Dylan mi ha colpito in questo, nel modo di raccontare, nel modo di ambientare i racconti. Non saprei ora anche razionalmente come esprimere questo, ma una semplicità e una ruvidità che rendevano tutto ciò che lui faceva molto reale, molto poetico nelle mie corde, insomma. E poi mi pare che hai fatto una cosa molto interessante, sei entrato nel mondo di Fabrizio De André nel 2002, è così Tiziano? Sì, è così. Sono, come stavo dicendo prima, nato come chitarrista sull'onda dell'entusiasmo, dell'interesse per Dylan e per gli artisti americani, quindi con Dylan iniziai a ascoltare Woody Guthrie, Cisco Houston, Led Belly e poi gli altri artisti americani dalla West Coast, più o meno acida, da Grateful Dead. Bene, complimenti, hai sentito anche Grateful Dead. Hai sentito anche Grateful Dead, complimenti Tiziano. Grazie, sì, ho finito i solchi. Fino agli ultimi, più o meno, alle ultime contaminazioni mi piace molto Daniel Lanois, mi piace... quella musica anglo-francese, la musica di confine di New Orleans. Ci andai anche anni fa a New Orleans e cercai di capire un po', stando lì, cos'era questo guazzabuglio. È veramente un grogiolo di culture, di idee, estremamente stimolante. Ci andai prima dell'uragano, quindi mi vidi anche il French Quarter. Però sono arrivato a De André per rispondere alla sua domanda anni dopo, quando partecipai per caso a quel concerto che poi è stato pubblicato sul disco, sul Faber volume 1 e 2, quello che si tenne nel 2000, un anno dopo la morte di Fabrizio, e rimasi impressionato dalla partecipazione della gente. Io ero fuori ovviamente, non nel Carlo Felice, non nel teatro. C'era un grande schermo, un maxi schermo, e sorpresi una vecchietta accanto a me, all'altezza, era sotto la mia scena, piccolina, che cantava a squarciagola Creusa de Ma. Io avevo sentito parlare di De André, critiche letterarie ai brani, se fosse o meno un genovese parlato, se fosse un genovese dotto, arcaico. Insomma, questa signora cantava a squarciagola, vidi la gente commossa, mi colpì il rapporto che un artista può creare con la... con la propria gente, e quanto le parole parlate nella propria lingua siano importanti. Quindi mi sono messo a scrivere in italiano, non subito, prima nacque il progetto Shylock con Ella De Bandini. Grande batterista, eh. Sì, con Giorgio Cordini al Buzuki, anche lui della band di De André, e alcuni musicisti della band di Riccardo Tesi, e alcuni jazzisti toscani, Nico Gori, che è un clarinettista, sassofonista, che sovente lavora con Stefano Bollani. Nacque così, e poi dopo questa esperienza De Andreiana, in età non più giovanile, a 45 anni passati, mi venne naturale scrivere. Quindi lì ho iniziato, con un certo ritardo, la mia attività di scrittore di testi. Bene, bene. Che ha approdato al tuo primo disco, si chiama Zaccaria per terra, pubblicato da un po' di anni fa, che ebbe un grosso successo di critica, smosse le acque, possiamo dire così Tiziano? Sì, io fui molto contento, rimasi molto impressionato da questo, perché era un lavoro, sai come, racconto un piccolo aneddoto, nacque perché la CNA, la Confederazione Artigiani di Pistoia, la mia città natale, ogni anno, adesso ha smesso di farlo nella crisi globale nella quale viviamo, però ogni anno si dedicava a un artista, a fine anno dedicava a un pittore, a un musicista, a un poeta, la possibilità di presentare in pubblico nel teatro comunale la propria opera, o in un'area di vita, insomma, se nel caso fosse un artista dedito all'arte figurativa, e la possibilità anche di divulgare in modo piccolo, locale, il proprio lavoro. Io fui chiamato, ero in vacanza in Sardegna, la mattina presto mi fu detto: pensavamo a lei per quest'anno. Io rimasi un po', ma lei ha un disco pronto? Mi chiesero. Io scrivevo canzoni, per dire, a dire il vero, da qualche anno, ma non avevo mai pensato, le suonavo alle scene, dopo le scene con gli amici. Misi insieme il materiale che avevo, uscì il disco, la critica fu buona, però... il problema, come sappiamo tutti, è far sapere che esisti, far muovere il disco, farlo conoscere. È vero, è vero. Lo vogliamo far conoscere questo disco, Tiziano? Facciamo ascoltare la canzone che apre il disco intero. Vi ringrazio molto e poi vi racconto qualcosa della canzone. Grazie. Bene. Allora, la canzone che apre questo CD, che si intitola Goccia a goccia, è chiamata, o si intitola meglio dire, Occhi aperti. C'erano ancora le bandiere rosse il giorno che sul palco vidi il maestro e il professore. Nel parco nuovo di Monte Oliveto c'era un vento fresco appena tramontato il sole. Tu lo sapevi dove sta il mistero, in quale buio angolo del cuore, per quale strada ci si può arrivare con le parole. C'erano giovani e famiglie intere, vecchi col bicchiere e la camicia più pulita. Nessuno aveva ancora persuaso la povera gente di poter permettersi una bella vita. I loro figli avevano domande e ognuno la sua spiegazione. Nessuno aveva ancora steso sulle loro menti l'asfalto della comunicazione. Dovrà passare pure questa notte, come ogni cosa presto o tardi muore. Ci incontreremo in un giorno qualunque e non ricorderemo neanche un nome. Avrei voluto raccontarti tutto, ma non c'è stato il tempo di vederti. Ti aspetterò dove tu m'hai lasciato, a un angolo di strada, ad occhi aperti. Meteoro in fondo a un cielo nero, cadono i poeti, per loro in questo mondo non c'è posto. Uomini audaci, rapidi, assertivi, che si mangian vivi pur di poter vincere a ogni costo. Eppure sento un tremito che sale dal fondo delle fogne fino in strada, mentre il potere si rilecca i baffi con la faccia a schiaffi di chi arraffa tutto e poi non paga. Ma stamattina in via di Stracceria mi par di rivedere le lenzuola stese ai davanzali. Mi sembra ancora di sentire il vento che le fa sfiorare quasi fosse un battito di ali. Vorrei sentirla ora la tua voce, aspra del primo sorso del mattino, come un sapore che mi torna in mente quando il gelo scende per le valli buie d'Appennino. Dovrà passare pure questa notte, come ogni cosa presto o tardi muore. Ci incontreremo in un giorno qualunque e non ricorderemo neanche un nome. Avrei voluto raccontarti tutto, ma non c'è stato il tempo di vederti. Continuerò con quel che m'hai insegnato, da un angolo di strada ad occhi aperti. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ad occhi aperti, Tiziano Mazzoni, questo disco che si intitola, ripeto, Goccia a Goccia. Tiziano, ci sei? Ci sono, certo, ho ascoltato... Il tuo pezzo, che bella questa canzone. Mi emoziona sempre, sai, un brano... Ci tengo a dire questa cosa. Sta un po' fuori dal disco, nel senso che il disco è legato un po' da strani legati in qualche modo tra loro da un tema, quello del rapporto, un po' visto da diverse angolature. Questo brano sta un po' fuori tutto. L'ho scritto in sala di registrazione, terminato il lavoro, perché è venuto a mancare un caro amico, Maurizio Ferretti, che era un musicista, ma soprattutto un ricercatore musicale, di musica etnica, una specie di Lomax pistoiese che girava sull'Appennino tosco-romagnolo fra Pistoia e Modena, registrando cose che poi sarebbero svanite per sempre, ninna nanne, canti fatti dagli anziani, molte volte non scritti, quindi una memoria preziosissima. Maurizio era anche un autore, sul mio primo lavoro c'è un brano suo, Donna. Maurizio improvvisamente venne a mancare durante le registrazioni di Goccia a Goccia. Io scrissi questa impressione su di lui veramente in una nottata, e poi l'ho incisa, chiamando i musicisti pistoiesi che suonano questo brano e che con Maurizio Ferretti avevano lavorato. E in questo brano suonano Nick Becattini alla chitarra elettrica, bluesman pistoiese, Riccardo Tesi all'organetto, Marco Perozzi alla steel guitar, alla slide, eccetera eccetera. Quindi è un omaggio che ho voluto mettere in apertura al lavoro a Maurizio. Diciamoli tutti, anche Stefano Melone alle tastiere. Beh, ci sono molti musicisti. Pippo Guarnera, Hammond. All'Hammond e Pippo Guarnera sono su tutto il disco. Andrea Marianelli a contrabbasso. Andrea Marianelli a contrabbasso, poi ci sono due amici, Mascia Anguillesi di Livorno e Giulio Conte di Roma, che fanno i cori, ed è poi una canzone dove Marco Pierozzi, come diceva alla slide guitar, e Ella De Bandini alla batteria. Cioè, che il monumento. Ella De Bandini. È un mito. Comunque è un piccolo capolavoro nella sua interezza questa canzone, a prescindere dal fatto che tu gliel'hai dedicata e scritta per questo tuo caro amico, insomma. C'è, visto che ne parlavamo prima, racconta il primo concerto che ho visto da piccolo, insomma, dove lui suonava, c'era una discreta differenza d'età, e anche questo, come Dylan, ne parlavamo prima, mi ha radicato in quest'idea che cantare e raccontare la propria storia ha un valore di, certo, di testimonianza, ma anche di in qualche modo di comunicazione di un proprio viaggio personale, ecco. Sì, una cosa, questo è un disco che, mentre il precedente Zaccaria l'ha inciso in 3 giorni, mi pare, vero? È così, Tiziano? Sì, sì. Questo è più di 3 giorni, quasi un anno, perché è un disco compiuto, un disco di ricerca, un disco veramente finito al 100%. Beh, ti ringrazio, è un disco anche un po' sofferto, nel, sì, senso, non ero molto soddisfatto dopo la registrazione. Iniziando il lavoro di mixing, ho preferito rivolgermi a Stefano Melone. Stefano Melone, che citavi prima, ex pianista di Ivano Fossati, certo, sì, musicista di grande spessore e anche collaboratore di Riccardo Tesi. È stato proprio Riccardo che mi ha indirizzato a Stefano ed ho iniziato una serie di viaggi da Firenze, dove mi ero spostato nel frattempo, dove abito adesso, verso Pesaro, dove abita Stefano, per lavorare al mixaggio. Abbiamo ripulito molto, è stato un lavoro anche di ripensamento, alcuni brani sono stati proprio incisi nuovamente di sana pianta, quindi alla fine è approdato dove anch'io mi immaginavo. Cioè, dove il progetto doveva finire, secondo te, inizialmente, chiaramente. E parlando di questo pezzo, l'iniziale, questo pezzo che apre il disco, questo organo che si sente dappertutto, è un fil rouge in tutti i pezzi, se lo organo. È interessante, è un pezzo molto americano nella sostanza, molto dylaniano nella sostanza, ma nel senso positivo del termine. Una ballata, ricordo di un tuo amico, però ha quella atmosfera di disco americano, secondo me. Sono le mie radici musicali innegabili, insomma, non sono le sole, ma certamente è la parte di me anche più autentica, insomma, sono cresciuto ascoltando questa musica. Quello che ho cercato di fare, il mio lavoro è stato anche di riuscire a cantarci sopra in modo naturale, in modo che non fosse sforzato. Io credo la lingua italiana non abbia poi, lavorandoci, diciamo, che si possano superare i primi scogli, quelli evidenti, insomma, delle parole lunghe, della mancanza di tronche rispetto all'inglese, ma si può lavorare. E certamente in molti brani del disco avrai sentito, mi immagino, questa atmosfera. Certo, il disco l'ho sentito più di una volta e mi è piaciuto immediatamente, come è piaciuto il nostro direttore artistico e curatore Alberto Prisco. Anche lui è stato folgorato, non sulla strada di Dylan, perché Dylan lo conoscevamo da un po' di tempo, ma folgorato da questo bel disco, un disco interessante, fatto bene. Ho detto su una recensione, non c'è niente di negativo in questo disco, hanno scritto Tiziano su Twitter. Ho avuto recensioni molto buone, io sono molto contento, è un momento particolare per me. Sono contento anche dell'attenzione che ha riscosso, appunto, a livello di critica. Ci sono state recensioni anche diciamo, su testate, certo, stampate o sul web, insomma, importanti. E anche in questi giorni un riconoscimento, io ho partecipato al concorso L'artista che non c'era, quello che organizza L'isola che non c'era, la rivista. Certo. E sono adesso in semifinale, sono a Milano domani l'altro. Bene. Fra i primi 12 artisti selezionati, e questo per me è un grande onore, già così è un grande onore, perché riconosce un lavoro mio e poi i musicisti, dei tecnici che hanno lavorato con me. È un disco, visto che parliamo di Veneto, sai che sono mezzo veneto. Bene. Il mio nome non è casuale, i miei bisnonni materni scesero in Toscana in cerca di lavoro nei primi del Novecento, il nonno e la nonna materni, e da Cordini, che è nativo di Venezia, insomma, ad altri musicisti c'è un bel po' del nord-est italiano, c'è anche un bel po' del sud, perché Pippo Guarnera, certo, è siciliano, così come Ettore Bonafè alle percussioni. E anche, diciamo, pure l'etichetta è la EC, che è l'etichetta di Massimo Bubola, veronese puro sangue, quindi e Veneto, puro sangue. È stato un incontro per me molto emozionante. Ce l'avamo incontrati nel 92, ai tempi del progetto De André, del quale parlavamo prima. Ci incrociammo a Pistoia, credo per Massimo fosse una delle infinite serate nelle quali, alle quali partecipa su questo tema. Sai, io per lui ero uno fra i molti, lui era Massimo Bubola, per cui me lo ricordavo molto bene. Ci siamo rivisti anni dopo, lui ha ascoltato Zaccaria per terra, il mio primo lavoro, e molto gentilmente si è messo in contatto con me dicendomi che aveva apprezzato. Io allora a quel punto gli dissi: guarda, sto lavorando a un nuovo lavoro, a un nuovo CD, e così nacque la nostra collaborazione, nella quale Massimo mi ha molto, molto consigliato in senso propositivo, cioè non indirizzato, ma è sempre stato per me un riferimento anche in una discussione articolata, insomma, però senz'altro utile alla realizzazione finale del lavoro. Ti ha un po' influenzato, insomma, questo che vuoi dire? Insomma. Ma sono cresciuto ascoltando degli italiani, a parte De André, i lavori di Massimo sono bellissimi, ci si concentra spesso sulla sua collaborazione con De André, ma raccomanderei l'ascolto della discografia integrale, perché ci sono delle perle che hanno proprio un loro carattere. Certo, tutto passi in vano è una delle perle di Massimo Bubola. È bellissima. Quella è bellissima, è meravigliosa, guarda, secondo me. Noi abbiamo fatto sentire un sacco di volte in questa emittente, perché merita, un pezzo splendido. E poi lui ha prodotto la band Dolore, amore niente passa in vano, delle canzoni, certo, più belle e struggenti. E poi ha prodotto l'album meraviglioso della Gang, Storie d'Italia, è bellissimo, secondo me. Magari ci sta ascoltando, lo salutiamo. Esatto, Massimo, sei nel nostri cuori, ovviamente, anche perché oltre alla tua bravura ci sono delle canzoni che sono veramente molto molto belle. A proposito di canzoni belle, Tiziano, io direi di far ascoltare un'altra canzone, siamo qui anche per far ascoltare la tua musica, il tuo disco, ed è giusto proporre. Abbiamo scelto Cambio, ti piace, ti va bene? Certo, è il mix Cajun Blues, sono felicissimo, certo, dell'ascolto, un po' di brio. Okay. Tiziano Mazzoni, Cambio. Thank you. chiudo il conto. Il tuo amore non lo trovo, non lo sento. Parte il locale delle sette e mezzo, tra un po' non ci salirò. Tra i pendolari, gli studenti e il vento, dai finestrini aperti fino all'arrivo. Tu che ci fai? Perché ritorno nei miei pensieri. Lasciami in pace, lasciami qui, dai passeggeri. Ma li hai mai visti tu i vagoni pieni? L'odore di sudore. Ma ci si abitua e poi si viaggia insieme. E si divide il pane e anche il liquore. Cambio nome, cambio strada, cambio posto. Salto il turno, salto il pasto, salto il fosso. Ma ti ricordi quando avevo freddo e mi lasciavi in strada? Ora che devi perdonarti tutto, qualunque via tu prenda, dovunque vada. Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:30, questa è sempre Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Splaore che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di scoprire un po' di più quello che è il mondo musicale di questo artista toscano, cioè Tiziano Mazzoni. Ci sei Tiziano, sei sempre lì? Sono con voi. Sei qui, bene, sei bene. Tiziano, sai perché ho scelto questo pezzo? Tanto anche musicalmente è molto vivace, molto... molto accogliente, accattivante. E perché racconta di un viaggio in treno? Sono 35 anni io viaggio in treno tutte le mattine, Tiziano, hai capito? C'è anche questo punto di riferimento. Parla di un viaggio in treno, sì, in senso figurato, ma poi ci sono ricordi miei di sul locale, perché io prendo locale spesso volentieri. Certamente, perché il locale. Appunto, c'ha un certo fascino anche il locale. Con l'alta velocità e gli odori, i sapori, la mancanza di spazio, però poi alla fine anche il condividere, no? Che poi alla fine ti fa stare insieme. Era una canzone che ho scritto in un momento di cambiamento e poi è uscita fuori inaspettata questa cosa del viaggio, del treno, che mi è piaciuta, quindi è stato composto molto istintivamente e poi con Riccardo Tesi abbiamo costruito questi interplay di organetto, di fisarmonica. Sì, sì, che sono proprio le caratteristiche di alcuni pezzi, questo organetto di Riccardo Tesi, un grandissimo musicista, anche uno di cercatore dei suoni, quello dobbiamo sottolineare. Certo, Riccardo è un grande, soprattutto ricercatore di suoni e cultore della tradizione musicale popolare. Certo. Tra l'altro si è avventurato con me in questo lavoro anche in terreni per lui meno usuali, diciamo, possiamo dire. Meno normali. Sì, normali, cioè, sì. Meno tipici, per cui si è avventurato un po' nel blues, un po' nel... Forse salvo un brano o due, per lui è stata anche coraggiosa come strada. No, decisamente, il disco è molto interessante, è molto bello, ha tante facce, tante caratteristiche, c'è sempre il fil rouge del discorso americano, ma il discorso americano è solo un modo per sviluppare certi altri temi poi praticamente. Beh sì, ci sono anche alcuni brani forse un po' più lontani, c'è un andamento, un sirtaki. Quello è bellissimo, quello lo citiamo dopo, visto che è la title track. Citiamo. Certo. L'abbiamo selezionata adesso. Quindi. Esatto, è molto bello, è un sirtaki. Come hai avuto l'idea di un sirtaki come title track, Tiziano? Molto accattivante. Prendi immediatamente sirtaki, tutti ce lo ricordano all'epoca. Certo, Zorba il greco. Esatto, in Italia il sirtaki solo Zorba il greco praticamente. Ma praticamente poi è quel ritmo, è quel ballo che poi lì è nato, lì è, cioè non è una tradizione popolare, insomma, è proprio quella forma e comunque quell'andamento che poi comunque è tipico non solo alla Grecia ma anche a altre culture medio orientali. Mi viene in mente Maghreb, insomma, sì. Nord-Africa, Israele. Certo. Il brano è nato così perché avevo in mente questa storia, questo amore tra anziani, forse la vecchiaia, l'amore nella vecchiaia e anche la vecchiaia dell'amore. Due persone che ormai senza rancore, senza neppure acredine, si separano, ma si separano in un modo anche dolce, se vuoi, capendo, accettando che l'amore, come una danza, necessita dei propri passi, quindi vanno fatti tutti uno dopo l'altro. E con Riccardo Tesi abbiamo definito quella che è la frase di Buzzucchi che sentirete nella canzone che è eseguita da Giorgio Cordini. Riccardo Tesi, sebbene organettista, si è cimentato in questa cosa, è stato lui proprio a avere l'idea e poi la tonsera si è spostata sulla Grecia e così è uscita la canzone. Come, a parte questa, ma il resto del disco, il resto delle canzoni, Tiziano, come nascono? Cioè, come trovi l'ispirazione te per scrivere le tue canzoni? Parlo dei testi, poi la musica. Senti, scrivo, non è una legge generale, non voglio enunciare nessun tipo di teorema. Per me avviene che spesso scrivo il testo e avendo in mente un ambito musicale, perlomeno a livello ritmico, non ho in mente una melodia precisa, me ne posso immaginare una, può cambiare, più che altro ho in mente un ritmo, su questo scrivo e poi comincio a lavorare su quella che era stata la mia, diciamo, primordiale idea musicale e l'adatto un po' alle parole, però metto molta cura nello scrivere, per goccia a goccia perlomeno quasi tutti i brani hanno avuto un forte lavoro di scrittura, di limatura, di ricorrezione da un punto di vista delle liriche, mentre da un punto di vista musicale abbiamo privilegiato più l'immediatezza, anche se poi è stato lungo il periodo nel quale abbiamo un po' rimesso a posto i suoni, però ci tengo a dirlo, tutto il disco, salvo due brani, tre che abbiamo reinciso, è suonato dal vivo in studio, perlomeno da quattro musicisti: Ella De Bandini, Giorgio Cordini, Franco Testa al contrabbasso. Ma ti ispiri a qualche fatto tuo personale, qualche tua esperienza per scrivere questi testi o sono fantasie tue, diciamo? No, sono quasi sempre storie mie, non riesco a scrivere. Quindi molto autobiografico, insomma. È molto autobiografico, magari vedo certe situazioni da più angolature, anche in funzione dell'umore che ho in quel momento, magari perché la vita è così, insomma, si cambia, si ripensa alla stessa cosa un po' di tempo dopo, la si vede da un'altra prospettiva, però scrivo molto raccontando storie, miei punti di vista, credo molto in questo lavoro di testimonianza della canzone, non ne ho mai scritta una, credo, e poi mai dire mai, insomma. Non mi riesce ambientare, scrivere, pensare, sceneggiare, generalmente sono autobiografiche. Certo. Vogliamo ascoltare goccia a goccia allora? Molto volentieri, buon ascolto a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto allora. Goccia a goccia, Tiziano Mazzoni. Prendimi per mano, prova a camminare, non mi devi niente, niente da spiegare, goccia a goccia, stento a stento, segui il ritmo, batti il tempo, conta ad ogni battito del cuore. Goccia a goccia, fianco a fianco, non c'è fretta e non c'è scampo, danza tutti i passi dell'amore. Niente, niente da salvare. Goccia a goccia, mano a mano, tutto passa e da lontano quasi non si sente più dolore. Goccia a goccia, poco a poco, tutto cambia e non è un gioco, danza tutti i passi dell'amore, l'amore. Radio Sera. Blu Radio Sera. Tiziano, eccoci qua. Che bello sto pezzo, c'è poco da fare. Parlavamo anche con i ragazzi qui in studio. È bellissimo questo sirtacchi. A me piace una cosa, ti dico, Tiziano: l'impasto delle voci, l'impasto vocale che fai. Qualcuno con voce maschile, qualcuno con voce femminile. Una volta mi pare. C'è un'amica che canta, però è bello perché è una donna con una voce bassa. Ah, vedi. È la tipica donna che ti fa gli acuti, il soprano. È molto bello. Silvia Conti, che saluto, non sta in giro per l'Italia, ci sta anche ascoltando. E questo brano è quello che ha scelto Massimo. Ecco, qui Massimo Bubola si è imposto, tra virgolette. Si è imposto bene. Mi raccomando, c'è la title track. Mi raccomando, goccia a goccia, ed è forse, guarda, davvero il miglior connubio fra musica e testo, come sintesi, come unione, ecco. Tu parlavi di Massimo, che non ha forzato, ti ha solo consigliato, ha abbellito, forse possiamo dire così, un progetto già interessante di se stesso. Ha lasciato che andassi avanti con una mia ispirazione, qua e là, magari con degli warning molto attenti su possibili, ma nemmeno scivoloni, cioè è un'esperienza, no? È una sensibilità, è stato per me un bel rapporto, proprio da un punto di vista musicale. Ci sono state valutazioni, commenti anche sugli arrangiamenti, e poi abbiamo seguito un po' questa direzione. Sono stato molto, per me è stato un onore poter essere pubblicato su una, su un'etichetta che ha una storia di qualità. Certo, certo, si è fatto cose molto interessanti, cito Maieron per esempio, che certo, e altre cose molto, e poi oltre tutti i dischi suoi, questo è fondamentale, sono stati ristampati sui vecchi dischi per la EC, i vecchi primi dischi di Massimo Bugola. Certo, è un autore importante, poi sai, si entra in altri, la distribuzione, la promozione, sì, certo, sì, i media, cioè, entriamo in altri, in altri settori, in altri, sì, ambiti. E forze di grandissime entità non controllabili, quindi, però su un discorso di qualità, capace, cioè di narrazione, di originalità nella narrazione, anche poi di recepire una tradizione americana. Ho visto, senza fare nomi, cantautori italiani vivere anche il discorso di molto, a volte anche molto esteticamente, no? Hai visto dire nei concerti, specie negli ultimi anni, sì, giacche lunghe, abiti scuri, cappelli, chitarre dannata. E Massimo è entrato dentro, cioè lui scrive se vuole, perché non ha solo quell'espressione, insomma. C'è entrato dentro con la profondità di chi ha assimilato e capito, insomma. Quindi è. E Tiziano, quando è a casa da solo, nella sua intimità, cosa ascolta di musica? Ma senti, in questi giorni un po' di tutto. C'ho sul lettore l'ultimo di Cohen. Bello. C'ho Chuck Weiss, che mi ha regalato un amico anni fa, prodotto da Tom Waits. Sì. C'ho Riccardo Tesi, in un lavoro che ha fatto su Caterina Bueno, cantautrice, cantante toscana di musica popolare. C'ho una cosa di Dalla, ricchissima, che è Anidride Solforosa. Bello, bello, interessante, molto interessante. E c'ho Daniel Lanois, c'ho un po'... Tu hai citato Daniel Lanois, spesso lo hai citato adesso, e anche in qualche tua intervista ho letto che Daniel Lanois, non dico un punto di riferimento, ma un musicista che ami particolarmente, al di là della produzione con gli U2 che ha fatto un po' di anni fa. È un musicista atipico, possiamo dire questo, crea, inventa, arrangia in modo molto particolare. Sì, mi ha colpito perché è stata una delle poche cose nuove che ho ascoltato, che ha dato, lui gioca molto, ha visto, con gli echi, strumenti tradizionali, anche molto asciutti, perché il modo in cui tratta, entrando in questioni tecniche, insomma, se me lo permettete, il modo in cui tratta il dobro, il mandolino, un modo molto asciutto, non è che addolcisce molto, e poi su questo crea invece un background molto emotivo, emotivamente, come dire, stimolante, cioè i bassi, il modo con cui lavora sulle percussioni, sul basso, e ne escono fuori lavori interessanti. Ci sono cose sue, io ricordo The Maker, certo, certo, e anche ricordiamo che Omersi è prodotto da Daniele Lanois, certo, insomma, Omersi uno dei più bei dischi di Dylan in assoluto, chiaramente. Ha un grande suono, io mi preoccupai dopo l'uragano, perché vi ricordate, si persero le tracce, certo, di Lanois per qualche giorno, e poi mi piace di lui molto questo mix tra la cultura canadese, francofona, e quella americana. A me piacciono istintivamente molto i canadesi, questi, forse un po' più di cioè rispetto al mainstream degli Stati Uniti, parlo di The Band, di Bruce Coburn, di Sonny Mitchell, di Gordon Lightfoot, di altri artisti che hanno segnato, Cohen stesso, insomma, certo. Cohen, che forse dei musicisti ebrei, il più ebreo, no? Certo, assolutamente. Dal cognome, che credo significhi cantore, al fatto che i genitori suoi erano cantori di sinagoga, i suoi brani, Who by Fire, che sono veri e propri brani della Bibbia riportati, del Talmud, riportati in musica. Certo. Il Canada mi ha sempre affascinato, e Daniel Lanois ha forse questo suo viaggiare su due binari mi affascina. Tiziano, io, se tu sei d'accordo, volevo far ascoltare una canzone adesso che si intitola Come un soffio di vento. Sì. E dopo ritorniamo in studio e ci salutiamo e ti facciamo un regalo con una canzone che so che ti piace tanto. Vi ringrazio e ascoltiamoci Come un soffio di vento. E resta lì, quindi, che poi torniamo in studio, va bene? Okay. volta loro le spalle, non metterti a sognare, soltanto un ultimo sguardo, c'è ancora strada da fare, qui non ti ascolta nessuno, tutti hanno altro da fare, scuoti dai piedi la polvere, riprendi a camminare, qui il portiere di notte ti lascia sempre passare, mentre tende la mano, nell'altra stringe un pugnale. Qui non è igienico stare, amico dammi retta. Non appoggiare i bagagli, potresti doverli raccogliere in fretta. Come un soffio di vento, voglio diventare che muove piano le tende, ma che non puoi toccare. Come un soffio di vento che appena riesci a sentire, è come un soffio di vento leggero scomparire. Sembra un paradiso, ma qui non puoi restare. Vattene via anche se è l'ultima cosa del mondo che vorresti fare. Anche se cerchi la pace, anche se la puoi dare, del paradiso degli altri si può approfittare. E allora alzati adesso, anche se non è giusto, perché ti sei seduto dove non è il tuo posto. E anche se ti è sembrato, non è mai stato amore, accosta piano la porta ed esci senza fare rumore. Come un soffio di vento io voglio diventare, che muove piano le tende, ma che non puoi toccare. Come un soffio di vento che appena riesci a sentire, è come un soffio di vento leggero scomparire. Come un soffio di vento che voglio diventare, che muove piano le tende, ma che non puoi toccare. Come un soffio di vento che appena riesci a sentire, è come un soffio di vento leggero scomparire. Thank you. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Tiziano, mi è piaciuto tanto sto pezzo e ho deciso di metterlo nella scaletta. È una ballad veramente malinconica, una grande ballad. E nei quattro pezzi che ho scelto, questo è proprio finiva i miei quattro pezzi, perché ne valeva la pena, Tiziano, al 100%. Sono contento dell'apprezzamento che mi dai. È molto sentita questa canzone. È un piccolo capolavoro questo. Mi sono accorto dopo che poteva essere. Ci sono amici, alcuni amici che mi hanno detto che pensavano a situazioni di viaggio, di non integrazione. Io l'ho scritta come una canzone d'amore. Sì. Questa doppia possibilità di lettura, insomma, mi è anche forse piaciuta di più. Comunque anche a me piace molto. La vostra scelta rispecchia molto anche le mie affezioni, insomma, con le canzoni. Tiziano, dove possiamo trovare il disco? 30 secondi, il tuo sito, tutte queste cose, informazioni per chi volesse contattarti anche, insomma. Perfetto, il disco si trova nei migliori negozi, no? Come si dice, distribuito da Self, e qualora non lo si trovi lo si può richiedere. Self Distribuzioni, etichetta Hacker, Self Distribuzioni è il distributore in Italia. È capillare, quindi dovunque lo si richieda dovrebbe essere consegnato. Io ho un sito mio che è www.tizianomazzoni.it, Tiziano Mazzoni tutto attaccato, e una pagina Facebook dove chi è interessato anche a un tipo di colloquio più parcellizzato si può interagire. Questi sono i miei riferimenti. La tecnologia va avanti, Certo. Va bene, Tiziano, noi ti ringraziamo veramente della partecipazione questa sera qui a Blu Radio Veneto con questo tuo capolavoro di disco, Goccia a Goccia. E ti regaliamo la canzone che so che ti piace tanto, forse la senti la più tua di tutto il disco, come se non ho capito male, cioè quella che chiude l'intero lavoro, cioè Vienmi incontro nel buio. Certo, è quella che in qualche modo riassume e trova una quadratura del cerchio, insomma, un incontro fra due persone che si erano allontanate. In questa canzone apre il doblo di Francesco Bocciardi, che è un musicista, un chitarrista, polistrumentista fiorentino, e poi sentirete Lemon di Pippo Guarnera, che qui veramente si scatena. Certo. E con questo saluto tutti gli amici veneti e vi ringrazio molto dell'opportunità. Ma ti aspettiamo qui a Padova da vivo, però, magari viene a farci un concerto qui in acustico. Questo, guarda, sarebbe il problema del booking delle serate delle agenzie, è annoso, lo saprete. Se parlate con qualche musicista, tutti. Sì. Però potrebbe essere carino anche vedersi in una formazione magari light, certo. Duo, in trio, ne possiamo parlare. Io per adesso vi ringrazio di cuore e vi auguro un buon lavoro con la vostra trasmissione. Ciao Tiziano, ciao, grazie a te. Tiziano. Alla prossima. Ciao. Vienmi incontro nel buio. Non so dirti se è vero o se è stato in un sogno. Ma è successo qualcosa, perché c'ho ancora il segno, qualche cosa che manca tra il mattino e la sera, qualche cosa che cerchi ma non sai più cos'è. E non voglio pensarci e non voglio capire e nemmeno ci provo, voglio solo dormire. Dammi il buio, Signore, dammi il sonno e la pace, perché io non so farlo, non ne sono capace. Vienmi incontro nel buio, stringi forte le mani. Vienmi incontro nel buio, non importa se premi. Siamo stati in silenzio noi, siamo stati lontani. Ma ora abbracciami forte e aspettiamo domani. Non so dirti se è vero, ma ricordo qualcuno che si muove nell'ombra e mi viene vicino. È un mattino d'agosto, c'è una pioggia leggera, l'avvolgibile chiuso, chiuso fino alla sera. È il respiro che manca, è un delirio sottile, sono lacrime e baci, fino quasi a impazzire, per scacciare i tuoi dubbi, per guarire il dolore. Hai lasciato ogni cosa proprio in fondo al mio cuore. Vieni contro nel buio, stringi forte le mani. Vieni incontro nel buio, non importa se tremi. Siamo stati in silenzio noi, siamo stati lontani. Ma ora abbracciami forte, ma ora abbracciami forte. Non so dirti se è vero o se è stato in un sogno. Devo averla anche amata, perché c'ho ancora il segno. Mi ha sorriso appoggiata a una macchina chiusa, come lei parcheggiata, aspettando la resa di chi stanco di bere vuol salirci ed andare, di un amante lontano che dovrà pur tornare, mentre lei alza il prezzo per poter perdonare, che io non le dovevo, che ho dovuto pagare. Vieni incontro nel buio, stringi forte le mani. Vieni incontro nel buio, non importa se premi. Siamo stati in silenzio noi, siamo stati lontani. Ma ora abbracciami forte, stringi forte le mani. Vieni incontro nel buio, stringi forte le mani. Vieni incontro nel buio, non importa se tremi. Siamo stati in silenzio noi, siamo stati lontani. Ora abbracciami forte.